si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. I nostri contatti su Twitter, @sipofare24, mio @AlessioAleMaurizi. Cominciamo subito, andiamo a dare un'occhiata sulle prime pagine dei giornali e poi avremo il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina dopo il GR delle 9 alle 9.15 per parlare di tanti argomenti, terra dei fuochi, Expo 2015, ma anche le iniziative regionali della Banca della Terra, un marchio unico per i prodotti italiani all'estero, anche per evitare la contraffazione. Questo, anche di questo parleremo con il ministro Martina più tardi. Adesso andiamo subito ad iniziare. And now the good news. E questa mattina per iniziare due piccole buone notizie che riguardano due comuni italiani. Prima di tutto a Castelvetrano, scelta come città pilota per la posa di un nuovo asfalto ecologico. Sono quattro le città europee selezionate per questo esperimento che coinvolge istituzioni europee e una multinazionale che sta sperimentando un asfalto ecologico a basso impatto e a costo zero. Ecco, per l'Italia è stata scelta la piccola città di Castelvetrano, quindi cari amici di Castelvetrano sappiate che sarete la sede di questo esperimento ecologico su scala europea. E invece la generosità degli artigiani aulesi che rinunciano ai rimborsi per l'alluvione del 2011, pensate, per ricostruire lo storico parco della Camilla in città, un parco per i bambini. Quindi gli artigiani che rinunciano alla raccolta di fondi fatta da Confartigianato in questi anni per, appunto, per mettere mano agli anni delle alluvioni, rinunciano per costruire il parco della Camilla. Insomma, la generosità anche nei momenti di difficoltà. Cominciamo. Allora, le prime pagine dei giornali di oggi sono in gran parte dei titoli principali dedicati alla situazione in Ucraina. Oggi c'è il referendum per l'indipendenza della Crimea, vedremo un po' di articoli e di commenti anche proprio dagli inviati dei vari giornali. Poi c'è sempre il fronte relazione del governo Renzi, ieri c'è stato l'incontro con Hollande, lunedì ci sarà l'incontro, quello più importante, con Angela Merkel a Berlino. Cominciamo con il Corriere della Sera. Ci invadono truppe russe in Ucraina, tensione al confine della Crimea, gli Stati Uniti, Mosca si fermi o ne risponderà. Leggiamo un breve commento di Franco Venturini. A un passo dall'incendio, uno scontro diretto tra soldati ucraini e forze russe è stato sfiorato a nord dell'accesso della penisola contesa, quando soldati senza mostrine hanno preso il controllo di un gasdotto. Si torna sempre lì, si è temuto che fosse giunto il segnale che tutti in Occidente paventano l'inizio di un'invasione dell'Ucraina orientale da parte delle forze russe. Il capo del Cremlino da tempo è convinto che la Russia debba creare una cintura di sicurezza attorno a sé composta da stati amici o neutrali, tanto più che dopo la fine della guerra fredda la NATO è avanzata. La sollevazione di Piazza Maidan mentre Putin era bloccato a Sochi per le Olimpiadi invernali, ricorderete, viene giudicata dai suoi servizi una manovra dei colleghi occidentali. L'indispensabile Ucraina deve per questo considerarsi perduta. Intanto riprendiamoci la Crimea e poi puntini puntini. Diciamo l'altro titolo, il patto Renzi-Hollande, ora crescita e lavoro. Insieme, ha detto Renzi alla Francia, possiamo e dobbiamo cambiare l'Europa, ma non sforeremo il 3%. Questo detto proprio a Nuora, perché suocera intenda, cioè la Merkel. Il Corriere si occupa anche di una ricaduta della spending review, dei tagli in questo caso a un settore particolare come quello delle forze dell'ordine. Scrive Fiorella Sarzanini, evidentemente ha avuto qualche tabella qualche tabella con dei dati sulle cose che si taglieranno all'interno delle forze dell'ordine, auto blu e uffici, tutti i tagli alla sicurezza. Il governo mette a punto il piano di tagli in materia di sicurezza e recepisce le linee predisposte dai vertici di polizia e carabinieri. Vediamo, saranno soppressi oltre 300 uffici, sedi in affitto trasferite in caserme dismesse o in immobili del demanio. Questa mi sembra un'ottima notizia, si risparmiano inutili affitti andando a occupare le caserme dismesse che, come sappiamo, in ogni città ce ne sono a decine. Un investimento unico poi per il rinnovo del parco macchine. Vediamo qualche numero. Sono 72 le sezioni di polizia postale che chiuderanno, 52 le sezioni di squadra nautica della polizia, così come i posti le sezioni di polizia ferroviaria. Alcuni esempi, c'è la cartina d'Italia con tutte le notizie che il Corriere ha a disposizione sul fronte dei tagli alle forze di sicurezza. Si chiuderà per esempio il posto di polizia di frontiera di Parma, e in effetti a Parma non risulta esserci frontiera, così come la polizia stradale di Portoferraio, oppure un altro posto di polizia di frontiera a Montichiari in provincia di Brescia, anche qua non risultano esserci frontiere se non nell'immediata vicinanza, oppure il commissariato di Porto Tolle a Rovigo. Insomma, Sono tanti i punti di polizia che ci saranno, sicuramente anche delle polemiche, perché quando si tocca la sicurezza è naturale che sia così, però è in corso questa grande riorganizzazione, ristrutturazione, e ci saranno un po' di tagli. Questo richiede del resto la spending review. Su Repubblica, Renzi Hollande sfida alla Merkel. Il premier a Berlino da alleato, non come uno studente che si fa interrogare. Questo Renzi l'ha già detto, dice: noi faremo il nostro compito, rispetteremo i patti europei non per far favore alla Merkel o a Bruxelles, ma perché è giusto farlo per noi stessi in Italia. Repubblica c'è anche una notizia che è più che altro un'inchiesta che riguarda i vaccini. Vaccini, cresce l'esercito dei ribelli, allarme della sanità, bimbi a rischio. I segnali sono sempre più chiari negli ambulatori delle ASL, come in quelli dei pediatri, nei dipartimenti della salute delle regioni, come al Ministero. In Italia la fiducia nelle vaccinazioni scricchiola, e chi ha dei figli lo sa, perché è un argomento di discussione. Il fronte dei contrari a questa forma di prevenzione arruola tra 3.000 e 5.000 persone ogni anno e fa scattare l'allarme. Perché fa scattare l'allarme? Forse giusto ricordarlo a chi il vaccino non l'ha fatto fare, perché, come ci ricorda il responsabile delle malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza in un articolo che sta per uscire negli annali, nella rivista Annali proprio dell'ISS, se cala il numero dei bambini coperti dal vaccino rischiano di tornare malattie che sembravano sconfitte. Il problema con i vaccini è che quando vincono sembrano inutili. Polio e tetano sono ancora molto diffusi nel mondo, e ci sono i grafici con la data in cui è entrata in vigore la vaccinazione obbligatoria, come l'antipoliomielitica nel 66, e da allora sono spariti i casi di polio, erano migliaia in Italia. Così col tetano, l'antitetanica, obbligatorio dal 68, oggi i casi di tetano sono quasi zero. La stessa cosa per l'epatite virale B. E questo è un allarme dell'Istituto Superiore di Sanità, un tema che ritorna. A proposito della spending review e soprattutto delle norme economiche per affrontare la crisi, una delle cose che ha detto Renzi è che dovremo rivedere il patto di stabilità interno. Quanto vale questa operazione? Vale diversi miliardi, ce lo ricorda oggi Repubblica. Fondi europei fuori dai vincoli, libertà di spesa ai comuni virtuosi. Così il governo cambierà il patto di stabilità interno. Le due strade che il governo vuole percorrere sono queste: mettere fuori dal patto di stabilità degli enti locali i fondi strutturali europei, o meglio la parte cofinanziata dall'Italia di quei fondi. L'altra strada che si sta studiando è premiare i comuni virtuosi, cioè quelli che hanno i bilanci in regola, consentendo loro di spendere quanto hanno in cassa per aggiustare le scuole, rifare le strade e investire. Insomma, è un tema fondamentale questo, ed è forse la vera nodo delle coperture alle promesse fatte da Renzi, sta qua, cioè nella possibilità di sbloccare questi fondi. Sapete quanto valgono? Allora, ci sono 9 miliardi di euro di fondi europei da sbloccare, 15 miliardi di fondi sviluppo e coesione, l'ex FAS, fondi per le aree sviluppate, tutti i soldi, insomma, sono 24 miliardi più quelli dei comuni virtuosi, credo che si superino i 30 miliardi. Insomma, volete dirci che mentre litigavamo su abolire o non abolire l'IMU c'erano dei soldi non spesi che potevano essere investiti? E questa è la realtà, e questa è la vera scommessa, la vedremo nelle prossime settimane del governo Renzi. Bernardo Valli dall'Ucraina scrive: la Russia ha perduto l'Ucraina e per punire la nazione sorella ribelle si prende una sua provincia, la Crimea, la occupa con suoi soldati senza mostrine e senza bandiere, li fa passare per patrioti del posto, tanto tutti parlano russo, è un po' da banditi, ma per dare una patina di legalità all'operazione fa promuovere dalle ubbidienti autorità locali un referendum, quello in programma oggi. Poi la notizia è questa: scendo nella piazza, nella Maidan, siamo a Kiev, per controllare gli umori, li pensavo pessimi, li vedevo già frustrati dall'impotenza di fronte allo scippo di una loro provincia, e invece li trovo eccitati, sorridenti, euforici. Da Mosca è appena arrivata la notizia dei 50.000 manifestanti in piazza per protestare con bandiere russe ed ucraine contro Putin, che ha occupato la Crimea. Kiev ha scoperto di avere alleati a Mosca, e probabilmente questa manifestazione a Mosca filo ucraina anti-Putin è la vera scintilla che potrebbe sbloccare in senso di più di maggiore distensione questa situazione incandescente. Il giornale invece lancia la campagna per candidare Berlusconi. Disobbediamo, una firma per candidare Berlusconi alle elezioni europee, scrive Alessandro Sallusti. Come sapete, dopo una condanna definitiva per frode fiscale c'è l'interdizione, Berlusconi non si può candidare, c'è una richiesta di intervento della giustizia europea che scadrà tra un po'. Nel frattempo Sallusti paragona Berlusconi a Gandhi, avete capito bene, il delirio sallustiano, mi permetto di dirlo con amicizia, anche se non lo conosco e affetto, arriva a questo. Sentite: l'emancipazione nazionale indiana non sarebbe stata possibile senza le azioni di disobbedienza civile di Gandhi, che parlava anche di resistenza civile. Lo stesso Gandhi affermava: noi cessiamo di collaborare con i nostri governanti quando le loro azioni ci sembrano ingiuste. Peccato che nel caso di Gandhi c'erano delle leggi contro il popolo indiano fatte dagli oppressori inglesi che in quel momento avevano occupato l'India, e qua non c'era nessuna oppressione contro Berlusconi, c'erano solo delle leggi sull'evasione fiscale che non sono state rispettate, c'è una condanna definitiva. Tant'è, il giornale invita i lettori a scrivere una mail per sostenere, far sentire forte la voce, ne vale la pena, indipendentemente, scrive, dal risultato che otterremo. Adesso facciamo una breve pausa, torniamo tra poco, andremo a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, a tra un attimo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Vi ricordo i nostri contatti: si può fare 24, l'account Twitter del programma, il mio chiocciola Ale Maurizi. Adesso, come detto, come anticipato, è il momento di andare a curiosare tra le pagine del domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, un vero e proprio giornale nel giornale. E ritroviamo il suo direttore Armando Massarenti. Buongiorno e buona domenica, Armando. Buongiorno, buonasera a tutti. Allora, oggi dove ci porti, Cicerone, nelle terre del tuo giornale? Dunque, difficile in poche parole raccontare tutto il giornale. Intanto partiamo dalla copertina, ma poi avremo lo stesso autore di questa bellissima copertina, Massimo Firpo, uno dei nostri maggiori storici, che parla di uno scritto di Erasmo, da poco pubblicato da Einaudi, che si intitola semplicemente Giulio, ma dietro questo Giulio c'è Giulio II, il pontefice, che è uno dei pontefici, appunto, protagonisti del Rinascimento, cui appunto Erasmo dedicò una specie di pamphlet in forma di dialogo, pubblicato nel 1517, in realtà scritto nel 1514, cioè esattamente 500 anni fa, ma di questo ci parlerà poi Massimo Firpo, sottolineando anche appunto un po' le caratteristiche particolari di questo, di questo grande umanista Erasmo, anche in tempi in cui la riforma protestante prendeva piede in maniera decisiva, cioè le differenze tra lui e Lutero, eccetera. Ma lo faremo dire da lui. Adesso farò una piccolissima carrellata. Dato una curiosità, prima parlavi di Crimea, c'è una notizia, un piccolo articolo, ma molto denso e significativo, di Federica Rossi, che ci racconta di come il trattato dell'annessione della Crimea alla Russia, alla fine delle guerre russo-turche, fu scritto in italiano. L'italiano era la lingua che faceva da mediatrice in quelle vicende del Mar Nero. Poi abbiamo un bel resoconto del Festival del Film dei Diritti Umani da parte di Lara Ricci, che racconta appunto di un film drammatico sulla vicenda siriana, un documentario, che è quello che ha vinto questo festival. Poi vado ancora avanti, ma tu blocchi quando vuoi. Abbiamo un romanzo confidenziale scritto dal traduttore francese di Elsa Morante. Elisabetta Rasì ci spiega bene come erano andate le cose. È un romanzo che ci mostra il lato privato della nostra grande scrittrice, l'autrice della storia, Elsa Morante, e questo è l'Elsevier di terza pagina. In terza pagina noi continuiamo io poi ho la mia parte filosofica, diciamo, presento il libro di Marco Aurelio, I pensieri, che sarà in edicola poi martedì. Parlo poi di filosofia per bambini, mostrando come c'è una bella battuta da cui parto: io credo nella convivenza pacifica tra popoli, dice un bambino in un libro appunto di filosofia per bambini, e l'altro risponde: sì, anch'io, ma adesso togliti dai piedi. Ed è il paradosso della tolleranza. Certo. Poi sempre abbiamo una recensione di Claudio Come? Sempre difficile equilibrio da trovare. Esatto, insomma, il paradosso poi comunque diventa più serio l'articolo, si parla di Voltaire, appunto, torniamo alle vicende della storia moderna. Poi sempre sono gli arcana imperi raccontati da Claudio Magris nel suo ultimo libro, Segreti e No, con la recensione di Gino Ruozzi, che è l'autore a cui dedichiamo poi l'aforisma della settimana ogni volta. E in questa volta abbiamo George Bernard Shaw: in paradiso un angelo non è nessuno di speciale. Lo trovo un aforisma molto bello. Poi abbiamo Valerio Magrelli, recensito da Gabriele Pedulla. Insomma, c'è una ricchezza notevole. Magari questo mio elenco, questa mia lista della spesa la continuiamo dopo. Ma adesso diamo la parola sicuramente al nostro ospite, Massimo Firpo. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Storico, e che oggi sulla prima pagina del Domenicale, il titolo è Erasmo e il Giulio Cesare dei Papi, definitivamente attribuito al grande umanista, come ricordava Massarenti, il dialogo che nel 1517 metteva alla berlina il pontefice Giulio II. Che cosa impariamo oggi da questa vicenda, Firpo? Ma impariamo, come dire, in termini generali, il significato, il pericolo, la duplicità dei messaggi. Quando Erasmo scrive questo testo, si scaglia questo nel 1514, si scaglia questo pontefice, peraltro un grande pontefice. Si pensa, dal punto di vista artistico, fu lui a commissionare la Volta della Sistina a Michelangelo, le stanze a Raffaello, San Pietro a Bramante, insomma, uno proprio di parte del Rinascimento trionfante. Certo, era un tipino, ma per suo, che pensava essenzialmente a difendere la Chiesa dalle difficili contingenze politiche, e quindi pensava soprattutto a fare la guerra. Fu un papa che combatté ininterrottamente contro veneziani e francesi per tutta la durata del suo pontificato, e questo ad Erasmo, l'umanista cristiano, l'autore del Lamento della Pace, dell'Elogio della Pazzia, sembrava appunto una pura follia che un papa si armasse di armature, andasse a combattere le guerre, scalasse le fortezze in pieno inverno, malato con la febbre, dicendo: voglio vedere se ho io i coglioni più grandi di quanto non li era di Francia. Insomma, questo non era tanto neanche un linguaggio, un atteggiamento da papa. Erasmo scrive questo dialogo, naturalmente, come un testo di divertissement dedicato ai suoi amici e la critica montante contro la Chiesa di Roma. Verrà poi pubblicato nel 17, piccolo particolare che nel 17 tutto cambia, perché nel 17 ormai c'è Lutero sulla scena, e attaccare i papi significa non soltanto attaccare i papi, la corruzione o la guerra dei papi, significa mettere in discussione la verità della Chiesa Cattolica, significa parlare dell'anticristo di Roma. Ed ecco quindi Erasmo che si trova fortemente in difficoltà. in difficoltà nell'accettare, nell'ammettere di essere stato lui l'autore di questo testo. Infatti tutti lo pensavano e molti lo sapevano, ma diciamo l'attribuzione definitiva ad Erasmo di questo testo è uno dei meriti di questa bellissima edizione fatta da Silvano Zeidelman. Insomma, avete sentito, molto, davvero molto interessante, Massimo Firpo, grazie. Ma Armando Massarenti, invece abbiamo circa un minutino per chiudere, se vuoi chiosare su questo o aggiungere qualcos'altro. Beh, diciamo che Massimo Firpo ha scritto un pezzo davvero esemplare che ci cala nell'epoca, che poi ci ha descritto anche in questo momento, quindi è davvero una copertina, diciamo, esemplare per quanto riguarda il domenicale. Io, se ho ancora mezzo minuto, vorrei ricordare che torniamo sul nostro tormentone, sulla questione della, ma che è una questione di capitale importanza per il nostro paese, cioè il Senato. Il Senato, certo, come noi lo vorremmo. Innanzitutto vorremmo, io lo scrivo in un mio piccolo corsivetto, vorremmo che continuasse ad essere chiamato Senato, al di là dei facili slogan in cui si dice aboliamo il Senato, perché noi abbiamo bisogno di una Camera alta, che sia la Camera poi delle garanzie per quanto riguarda i diritti e per quanto riguarda il controbilanciamento di leggi che magari sono scritte male, sono scritte da incompetenti, e quindi c'è la massima necessità. Quindi massimo apprezzamento per il governo che nella sua proposta ha recepito la nostra, certo, idea dei 25 membri della dinamica presidenziale, che appartengono. Però ci vuole più coraggio. Ci vuole più coraggio, ci vuole un Senato che è ben definito nelle sue. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati. Questo è il numero verde per intervenire in diretta. Potete cominciare da subito a prenotare il vostro intervento per commentare quello che avete sentito durante la rassegna stampa, quello che sentirete tra poco. Parleremo fra l'altro con il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina per affrontare vari argomenti, all'avvicinamento a Expo 2015, ma anche la terra dei fuochi con le recenti iniziative proprio del governo. Insomma, c'è un po' di confusione, le aree a rischio sembrano essere molto ridimensionate, però contemporaneamente è scattato anche il divieto di vendere prodotti che vengono dalle aree a rischio della terra dei fuochi. Parleremo anche di come valorizzare il nostro petrolio, il nostro paesaggio, la nostra agricoltura, l'agricoltura italiana, l'ipotesi di un marchio unico per esportare all'estero. Tutto questo tra poco con il ministro Martina. Poi potete chiamarci anche per indovinare il personaggio della settimana, come ogni domenica. 800 24 00 24, tra poco, dopo la pubblicità, il primo indizio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Come annunciato, diamo il buongiorno e la buona domenica al ministro Maurizio Martina. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona domenica. Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali. Allora, vari argomenti, io ho fatto un piccolo elenco per iniziare, lo condividerei con lei. Terra dei fuochi, naturalmente ci sono notizie della settimana, ma anche il tema importante di Expo 2015. Poi le vorrei chiedere anche un giudizio sulle iniziative, insomma sono governatori fra l'altro del suo partito, del PD, quelli della Toscana, del Lazio e della Liguria, che stanno portando avanti le iniziative sulla cosiddetta banca della terra, cioè cercare dei destinatari d'uso alle terre abbandonate. Mi sembra un tema importante e le chiederò se il governo in qualche modo intende sostenere queste iniziative. Poi anche per esempio il tema del marchio unico per i prodotti agricoli italiani, del Made in Italy agroalimentare italiano all'estero, anche questo è un tema che ritorna, perché si rischia forse un po' di frammentazione nell'esportazione e abbiamo il problema della contraffazione. Ma inizierei, ministro, se lei è d'accordo, sulla questione della terra dei fuochi, perché in settimana c'è stato questo messaggio apparentemente un po' contraddittorio: divieto di vendita dei prodotti alimentari per mettere al sicuro e chiarire una volta per tutte che quali sono i rischi davvero, però poi si è detto che le terre veramente contaminate sono molto meno di quello che avevamo detto inizialmente. C'è stato questo problema della terra dei fuochi, prima domanda, è stato ingigantito? Ma guardi, è un problema molto complesso, io non riesco a dare una definizione se è stato ingigantito o meno. Io quello a cui tengo molto è render conto del lavoro importante che è stato fatto fin qui perché noi questa settimana abbiamo firmato un decreto interministeriale con i colleghi della salute e dell'ambiente che apre la fase 2 di questa analisi complessa sui territori della Terra dei Fuochi. Sono stati analizzati i territori di 57 comuni. Per la prima volta c'è stata una classificazione del livello di rischio. Abbiamo sostanzialmente 5 livelli di complessità dal punto di vista dell'incrocio dei dati che sono stati elaborati. Siamo riusciti sostanzialmente a identificare un primo nucleo di territorio su cui prestare molta attenzione. Mi riferisco in particolare a 51 siti dei 3 livelli, diciamo, più complessi di pericolosità. Su questi 51 siti è scattato il divieto di vendita dei prodotti. Dopodiché non è finita qui, adesso andrà avanti il lavoro di analisi del territorio. Non a caso domani per l'ennesima volta si convoca il comitato tecnico che sta istruendo questo complesso lavoro. Il messaggio è: siamo sul fronte, stiamo lavorando bene, l'attività dei controlli continua. Ci sono due aspetti fondamentali: presidiare definitivamente con la legalità quei territori e consentire però anche a chi ha prodotto nelle regole e con qualità di poter andare avanti nella propria attività. Da qui la differenziazione appunto per livelli differenti del tipo di complessità e di anche di come dire pericolosità dell'analisi che è stata fatta. Ma per quello che lei ha potuto vedere in queste prime settimane, le analisi che sono state fatte in passato, cioè ci sono delle analisi sufficientemente chiare, o come per esempio il precedente ministro Orlando, il suo, però all'ambiente che l'aveva preceduta, aveva parlato della necessità di fare, perché del ministro dell'agricoltura abbiamo avuto la mancanza per un po', no? Quindi lui forse ha supplito anche su quel versante lì, di fare nuove indagini, nuovi approfondimenti, oppure bisogna cominciare a ripulire le zone che già si conoscono, a fare degli interventi? Qual è il suo punto di vista su questo? Guardi, adesso noi proprio con l'attività che è programmata domani iniziamo un'ulteriore fase di controllo esattamente sui 3 livelli più importanti, i famosi livelli 3, 4 e 5, che sono quelli diciamo identificati e come più interessanti dal lato proprio dell'attivazione di ulteriori controlli. Ma io dico questo: per la prima volta sulla Terra dei Fuochi si è fatta una banca dati unica e tutte le istituzioni preposte, dallo Stato alle istituzioni locali, hanno incrociato i dati che avevano. Non era mai accaduto, sembra una banalità, ma non era mai accaduto fin qui. Noi oggi disponiamo di una banca dati unica. Abbiamo incrociato tutti gli elementi di analisi che le varie istituzioni avevano sul tavolo e disponiamo quindi di una mappa omogenea. Non abbassare la guardia, questo mai, e però appunto avere anche la forza di distinguere le aree pericolose, quelle su cui bisognerà attivare bonifiche, controlli e ulteriori passaggi, dalle aree che invece possiamo considerare salvaguardate. Senta, a proposito invece di Expo, il grande tema dell'alimentazione sarà al centro di Expo 2015, però ci siamo ormai già abbondantemente dentro. Lei pensa che questo tema stia entrando davvero nel dibattito in Italia? Cioè sia chiaro per esempio agli italiani che Expo si occuperà di questo, cioè del ciclo dall'inizio alla fine, perché si ha avuto la sensazione, finisco la domanda, che su aspetti relativi alla comunicazione per esempio e comunque alla complessità del fenomeno alimentazione, ciclo dell'acqua eccetera, sembra che sia una fiera un po' dell'alimentazione. No, ma lei ha perfettamente ragione, il tema va sviluppato di più, la discussione va sviluppata di più. È evidente che ancora oggi non c'è, secondo me, il grado di attenzione giusta alla, come dire, all'importanza di quel tema. Nutrire il pianeta, energia per la vita. L'Italia ospiterà per 6 mesi la discussione globale sulla sfida alimentare del futuro, la grande complessità di questo tema. Noi abbiamo una produzione agricola mondiale che negli anni da qui al 2050 diminuirà e abbiamo una domanda di alimentazione di cibo che aumenterà in maniera anche vertiginosa, a fronte del fatto che nel 2050 il mondo avrà 9 miliardi di abitanti. E attorno alla questione alimentare si sta veramente riposizionando anche la geopolitica. Insomma, io credo che anche la vicenda che stiamo vivendo in queste ore a proposito di Ucraina e di crisi, diciamo, Ucraina centri con questo tema. L'Ucraina è un grandissimo serbatoio, serbatoio anche di commodity agroalimentari, alimentari. Voglio chiedere questo: dove secondo lei c'è stato un po' di mancanza, un po' di deficienza? Perché c'è anche un po' di ritardo nell'organizzazione dell'evento, c'è stato un po' di polemiche milanesi sulla questione del canale d'acqua. La verità l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Negli anni passati, purtroppo, sull'esposizione universale si sono scatenate, rovesciate polemiche politiche, istituzionali, tra gli enti locali che al tempo avevano iniziato questo lavoro, che non hanno fatto per niente bene. Ricordiamo tutti il conflitto tra Regione Lombardia e Comune di Milano, quando sedevano, appunto, governavano quegli enti altre persone. Lì si è perso tempo. Devo dire che il lavoro straordinario del commissario unico Beppe Sala in quest'ultimo periodo è stato veramente significativo, perché abbiamo svoltato. Dopodiché abbiamo un anno davanti, e in questo anno non possiamo perdere tempo, dobbiamo assolutamente accelerare, dobbiamo far entrare questa discussione davvero nelle case degli italiani. Noi abbiamo iniziato anche a proporre alcune cose. Faccio un esempio: io penso che una delle eredità più importanti che l'Expo può consegnare all'Italia è quella di far diventare l'Italia il primo paese che nelle sue scuole elementari discute di educazione alimentare. Questa è una sua proposta proprio? È una proposta che stiamo elaborando col ministro Giannini, consapevoli del fatto che l'educazione alimentare è una chiave dell'educazione civica, e prenderla da lì può significare anche fare veramente un servizio ai cittadini di domani. Poi potremmo andare avanti, ne abbiamo diverse altre idee. Senta, buone. Sì. Quella del marchio che citava lei è un'altra grande idea, secondo me, per il modello. Ecco, lei su questo scommette, cioè sul fatto che ci voglia un marchio unico che riassuma tutti i vari DOC, IGT, IGP, perché si rischia all'estero di non essere capiti, di non essere percepiti con una unitarietà. Lei questa proposta la sosterrà? Ma guardi, io ci sto lavorando, ci credo, è una domanda che viene proprio dai produttori di DOP, dai produttori di massima qualità del sistema agricolo agroalimentare italiano. Nel mercato globale adesso c'è bisogno di posizionare la qualità italiana con un grado di coerenza e con una forza, diciamo, unificante del meglio dei prodotti che abbiamo. Io credo che si possa sperimentare un marchio unico agroalimentare a partire dalle nostre DOP. Noi siamo leader in Europa per numero di DOP in campo agroalimentare. Credo che l'occasione di Expo può essere l'occasione giusta per sperimentare per la prima volta una grande operazione di squadra. Speriamo, ce lo auguriamo. Proveremo. Senta, un altro tema che io ho lanciato è quello delle banche della terra. C'è l'esperienza della Regione Toscana, che l'ha avviata da un po', terre a canoni agevolati, aspiranti contadini, ma anche imprenditori agricoli che vogliono mettere su agriturismi, fattorie didattiche o anche semplicemente produzioni. La stessa cosa sta lanciando la Liguria, è un po' più indietro, e il Lazio qualche giorno fa ha dato un annuncio. Sembrano iniziative importanti ma un po' zoppicanti. Non c'è bisogno di una regia nazionale, di una spinta, perché diciamocelo chiaramente: in tempi di crisi dobbiamo fare appello a tutte le risorse. I terreni abbandonati sono una risorsa buttata via. No, guardi, ha perfettamente ragione. Le dico che noi nei prossimi 10 giorni convocheremo una riunione con le regioni esattamente su questo. Le sperimentazioni portate avanti fin qui, soprattutto a livello centrale, hanno avuto diversi problemi. Bisognerebbe parlarne a lungo, ma c'è un tema legato proprio alla gestione di quelle terre, al demanio, alla complessità anche dei rapporti tra demanio e altre istituzioni pubbliche. Ma rimane il fatto, come dice giustamente lei, che questa è una delle grandi progettualità che l'Italia può sviluppare, anche perché noi abbiamo diverse aree che possono essere interessate da questo tipo di progettualità. Per quel che mi riguarda, farò di tutto per aiutare le regioni e mettere al servizio anche il Ministero per una svolta da questo punto di vista. Credo anch'io, soprattutto in alcune aree di questo Paese, che questa progettualità possa davvero rappresentare una novità assoluta. Mi piacerebbe veramente avere davanti un paio d'anni in cui si possa sperimentare praticamente anche questo. Senta, un altro tema da accennare, lei è ministro da poco tempo, però potrebbe anche essere quello degli OGM, perché recentemente se ne è tornati a parlare, l'Europa va avanti con una politica di cauta apertura sulla possibilità di coltivare mais, per esempio OGM, in Italia restano sostanzialmente vietati, credo, tranne forse poche eccezioni, ma forse nessuna. Il governatore Veneto Zaia, suo predecessore un paio di governi fa, ha sostenuto recentemente che la vocazione italiana alla qualità, un po' quello che diceva anche lei, non alle grandi estensioni, ma si concilia col futuro agli OGM. Lei che ne pensa? Ma sono d'accordo con Zaia. Ecco, questa è anche un'altra penso notizia. Il modello agricolo italiano, proprio per le sue caratteristiche, possa per fortuna fare a meno di ragionare di OGM come ragionano invece altri paesi che hanno un'agricoltura estensiva molto molto diversa dalla nostra. Penso che il modello qualitativo italiano possa prescindere da questo. Mi è chiaro che è una discussione molto seria e mi è chiaro anche il fatto che nel dire no agli OGM noi dobbiamo comunque riflettere su come la ricerca pubblica in Italia può andare avanti su alcuni fronti, perché non vorrei mai che fossero solo le grandi multinazionali private a sviluppare ricerca su questo versante, ma il modello agricolo italiano è un modello che per fortuna può, come dire, riconoscersi su altri grandi aspetti, con altri grandi caratteristiche. Poi la discussione in chiave europea è una discussione molto complessa, sul principio di precauzione si è fondata buona parte dell'attività della Commissione del Parlamento fin qui. Peraltro è una discussione ancora aperta, perché sappiamo che proprio nelle prossime settimane avremo davanti anche alcune decisioni, alcuni passaggi non banali, ma io penso che l'Italia deve fare l'Italia, e per cui anche per scelta economica e sociale sì, può impegnarsi a narrare, a far crescere un progetto, un modello agricolo differente. Senta, così per chiudere anche in leggerezza, in allegria, domenica le volevo fare un paio di domande, un tipo test di cultura generale e anche settoriale nel suo settore, così proprio per scherzare. Allora, potrò fare delle gaffe, va bene. Sì, ma è un gioco, è un gioco. Quali di questi tre stati non aderisce a Expo in polemica con l'Italia? Allora, la prima risposta è il Vaticano, perché non vuole pagare l'IMU. La Crimea, per via dell'intervento militare del Regno di Sardegna, che fu ordinato nel 1854 da Cavour. Oppure la Turchia, perché l'Italia non ne sostiene più la candidatura alla prossima esposizione. Dunque, spero che la Turchia ci ripensi, mettiamola ecco così. Però è vero che l'Italia ha cambiato posizione? Beh, no, l'Italia ha sostenuto la candidatura degli Emirati Arabi, uh-huh, convintamente. C'era ancora la candidatura di Smirne per la Turchia, ma l'Italia ha fatto per tempo la sua scelta. Poi che i turchi magari potessero pensare ad un sostegno italiano in virtù di quello che è accaduto sulla nostra candidatura, questo è legittimo, ma l'Italia ha fatto una scelta molto precisa sostenendo la candidatura di Dubai 2020. Tornando al discorso invece del marchio unico, l'Italia è piena di prodotti tipici. Quali di questi prodotti tipici non esiste in Italia? Il pomodoro di Pachino, la cipolla di Tropea o il finocchio di Galarate? Lei che è lombardo. Beh, direi la terza, Naso, direi la terza. Esatto, esatto, e questa era abbastanza facile. L'ultimissima è questa. Quali di queste tasse, di queste tre tasse su prodotti alimentari non esiste oppure non è mai esistita? La prima è la tassa sul macinato, la seconda è l'accisa sulla birra, la terza è l'IVA sulle cime di rapa. Beh, anche qui mi sa che guardi, la seconda. Tranquillo, qua può rispondere come vuole, tanto l'Italia sulle tasse è democratica, sono esistite o esistono tutte e tre, perché in realtà esiste anche l'accisa sulla birra e ne parleremo tra poco, perché c'è una petizione proprio per togliere questa anacronistica, strana tassa su questo alcolico di largo consumo. E vabbè, l'IVA sulle cime di rapa è ovvio, perché l'IVA c'è su tutto, la tassa sul macinato è di storica e antica memoria. D'altro che italiana. Grazie ministro, grazie in voi, bocca al lupo, domenica. Buon lavoro, buona grazie. Giornata. 800 24 00 24, altro che se esiste l'accise sulla birra, ne parliamo tra poco, perché appunto c'è una petizione per toglierla. 800 24 00 24, a tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovato a Carlo Gabardini. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buona domenica. Allora, tra poco iniziamo, vogliamo darlo subito l'indizio, perché bisogna dare l'indizio per gli ascoltatori. Bisogna dare l'indizio. Il personaggio della settimana. Assolutamente, inizio andiamo. Inizio io col inizia dire che è un personaggio che ha molto a cuore l'istruzione. Sembra un ottimo indizio. E così cominciamo, 800 24 00 24. Carlo. E io mi aggancio subito a questa cosa, visto che il nostro personaggio della settimana di settimana scorsa era Foodie, il logo dell'Expo 2015, certo, a Milano. E in realtà abbiamo scelto anche quel personaggio anche per sapere voi che cosa pensavate di questo logo. Quindi se volete chiamarci anche questa settimana per dirci che cosa ne pensate. Nel frattempo ci ha pensato Oliviero Toscani a dire quello che pensa di questo logo Foodie, e direi che è stato piuttosto preciso. Ha detto: è una schifezza. Questa è la posizione di Oliviero Toscani. Un giudizio sfumato. Esattamente. Purtroppo il logo di Expo 2015 è di gran lunga più brutto persino di quelli brutti di Sochi 2014 e dei mondiali di calcio. È la solita storia di concorso all'italiana, nelle giurie ci sono sempre persone assolutamente incompetenti. È un po' quello che avevo pensato anch'io, senza essere toscani, però insomma. Ma lui tra l'altro così articolato e ne fa anche una disanima simile ai nostri indizi di settimana scorsa. Quindi dice: vorrebbe ispirarsi al dipinto dell'Arcimboldo, ma suona finto e falso, con frutta e verdura fatta al computer, certo, come OGM. Quindi anche interessante la sua operazione. È molto sottile. E pensare che il tema dell'Expo è il cibo. Se uno dei ragazzi del mio studio avesse fatto questo logo, io l'avrei cacciato. Ma passiamo sempre alla notizia che hai dato prima. Sì. No, in realtà è un'altra. Fa parte delle notizie sulle spending review. Le spending review che riguardano anche le forze dell'ordine. Vigili urbani, niente doccia. Parliamo di Bologna, dove il comandante Carlo Di Palma impone ai suoi berretti bianchi di non utilizzare più le docce del comando di via Ferrari e di chiedere il permesso ogni qualvolta sentono l'esigenza di darsi una lavata. Oddio. C'è proprio una circolare che annuncia che devo rammentare ancora una volta l'obbligo di controllare che il personale assegnato a taluni uffici, i reparti, non effettua alcun utilizzo delle docce in orario di servizio, come anche al di fuori degli stessi, se non per occorse improcrastinabili necessità. Illustrate, perché io mi immagino in realtà questi poveri vigili che a un certo punto debbano fare la richiesta, nel senso che devono fare la doccia, nel senso che se uno fa richiesta, valutando il comandante, valutando, e quindi non so, uno scriverà, non so, dopo lungo inseguimento del malvivente sotto la calura dei portici, il sottoscritto sudava tanto da rendersi impresentabile per la serata precedentemente organizzata con la consorte, e quindi non potendo fare attendere la suddetta consorte davanti al cinema dicendo: scusate molto, io adesso vado un attimo a casa a fare una doccia e poi torno, chiedo immediatamente la possibilità di effettuare una doccia all'interno del comando dei vigili. E tra l'altro poi devi aspettare, non so, aspetti lì in mutande che il comandante dica: ok, lei puzza veramente? Puzza poco, secondo me può andare al cinema anche se puzza qua tanto così, io conosco sua moglie. Ma perché il comandante parla così, per forza? No, non lo so, è del sud. Ma sto facendo delle cosa ci fanno le docce se non le possono utilizzare? Cioè, cosa no, perché per un'emergenza, se uno fa una solo per l'emergenza. Io mi immagino che se arrivi dopo che hai inseguito, anche perché mi immagino anche il vigile che dice: ascolta, mancano 5 minuti alla fine del mio turno, quello là sta scappando sotto il sole, forse chiudo un occhio, oppure lo inseguo, sudo come un porco, poi arrivo al comando e mi dicono: la doccia. Non si può neanche sciacquettare le ascelle, mi sembra un po' troppo. Va bene la spending review, però parlando sempre di soldi da trovare, parliamo di Claudia Moretti, 42 anni, precaria in un call center di Pesaro, che nel 2000, quando morì suo zio a 81 anni, ricevette in eredità una casa un po' una casa museo, strapiena di cose, perché lo zio collezionava un po' di tutto. Come spesso succede in questi casi, uno un po' non ci pensa, poi a un certo punto dice: ma la casa dello zio cosa ne facciamo? Quindi all'inizio di quest'anno si è messa con suo padre a decidere di liberare questo appartamento per poi fare dei lavori di ristrutturazione e affittarlo. Durante questa ricerca, nel mobiletto del grammofono, dice: guarda che bel grammofono che c'è, alzano il grammofono, sotto il grammofono c'è una piccola scatola di latta, dentro la scatola di latta ci sono 100 milioni di lire. Che adesso di lire, quindi vanno convertiti, però. Di adesso sarebbero 51.000 erotti euro, diciamo. Quindi dice: beh, li ho trovati, che bello, bellissimo, vado a farmeli cambiare alla Banca d'Italia. Purtroppo non è più possibile, come tutti sappiamo, erano 10 anni, quindi nel 2012 diciamo, è scaduto questo termine. Quindi, come lei dice, è bastata una telefonata alla Banca d'Italia, sono trascorsi più di 10 anni dall'entrata in vigore dell'euro, ormai non ho più titoli per rivendicare l'equivalente, perché per la Banca d'Italia queste sono banconote che non hanno nessun valore. Posso fare un paragone? Sì, cioè, certo. Non vorrei che questi 100 milioni che non valgono più sono come i fondi europei, e che abbiamo letto prima ci sono da sbloccare per l'Italia, che Renzi vorrebbe sbloccare, ma che fra un po' scadranno. Infatti quello che vorrei dire, speriamo che Renzi, visto che tutti stanno cercando il tesoretto, speriamo che a forza di cercare non lo si trovi in lire, nel senso che speriamo che questo tesoretto lo si trovi in euro. Devo dire che è anche interessante la battaglia legale che la signora adesso sta facendo, perché si è giustamente affidata a degli avvocati, i quali dicono: ma in realtà la signora è solamente dal 2012 che è nelle possibilità di chiedere il cambio in euro, quindi in realtà non dovrebbe essere scaduta. Quindi c'è in realtà una battaglia legale, e questo interesserà tutti, perché chi è che non ha a casa una moneta da 500 lire? Io ne ho tantissime di monetine da 50 lire. 800 24 00 24, abbiamo un paio di ascoltatori, cominciamo con Claudio che ci chiama da Roma. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Tocca a lei. Vabbè, avevo detto pure quali potevano essere il personaggio dell'anno, e sì, alla distruzione. No, io non ho capito. Guardi, lo sentiamo un po' male, Claudio. Resti in linea, resti un attimo in linea, perché non funziona. Proviamo a ristabilire il contatto. E sentiamo Piero da Milano. Intanto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io sono un ricercatore dell'Università di Milano e mi occupo proprio di biologia vegetale, di biotecnologie. Sì. E vorrei in qualche modo, non per, diciamo, per sfogo politico assolutamente, ma per puntualizzazione, chiarire una questione. Il ministro Martina ha detto che il modello agricolo italiano si riconosce in altre caratteristiche, implicando in qualche modo che in pratica non vogliamo avere molto a che fare con i cosiddetti OGM. Allora io volevo chiarire questo, che noi come Italia, come sistema agricolo italiano, importiamo 4 milioni di tonnellate di soia transgenica e derivati ogni anno. 4 milioni di tonnellate, sì, è una quantità con cui si riempie una torre gemella più o meno, giusto per dare un ordine di grandezza, e lo utilizziamo come mangimi per dare agli animali. Sì. Il punto è, se non fanno male, e la comunità scientifica è compatta nel dire che non fanno male, anzi che a volte sono migliori rispetto agli altri prodotti, allora non capisco. Sì, è chiaro, problema. Lei dice, c'è la solita contraddizione per cui le cose che si buttano fuori dalla porta rientrano dalla finestra. Piero, sì, che dire, era una domanda da fare a Martina forse, poi sa, il tema degli OGM è italiano ma è soprattutto europeo, staremo a vedere. Comunque grazie per la sua intelligente provocazione. Grazie. Abbiamo recuperato l'altro ascoltatore? No, non ce l'abbiamo. E allora cosa facciamo? Facciamo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Portaci da bere uno shot di birra presto, portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scura chiara ma che sia una birra. Una birra, please! Oh yes! Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, vedi il termometro impazzito, caldo quanto caldo quanta sete. Ya ya ya! Portaci da bere uno shot di birra presto, portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scura chiara ma che sia una birra. Una birra, please! Oh yes! Vabbè, i grandi Gaber e Iannacci, quando erano i due corsari, una birra. La birra. La birra, una bevanda di larghissimo consumo, a basso tenore alcolico, non ce ne vorranno gli amanti del vino, sono due cose dipende, diverse. Ci sono anche birre, molto ho bevuto alcoliche. Birre... a 48 gradi. No, forse 48 no, non credo. 48 è grappa, anzi è oltre la grappa, esatto. Non so. Normalmente a bassa gradazione, più bassa però gradazione. Però ce n'è da 13, ci sono queste ce ne sono birre. Varie, ce ne sono varie. C'è anche l'accisa sulla birra, c'è una tassa speciale come c'è sulla benzina, per esempio, c'è sulla birra, tanto che i produttori di birra, gli amanti della birra, hanno messo in rete una petizione per fermare l'aumento delle accise sulla birra. Una cosa incredibile, non so quanti la conoscevano questa vicenda qua. Noi abbiamo convocato Alberto Frausin, presidente di Asso Birra, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Cincina, il presidente di Asso Birra. Allora, la CISA è una vecchia tassa, sì, che il nostro Stato applica quando non sa dove andare a pescare, certo. Esatto. Diciamo che la chiamano tassa sugli alcolici. Il divertente è che la birra è l'unica bevanda da pasto gravata di questa tassa. Quindi, in qualche modo, non è una tassa sugli alcolici, è una tassa proprio sulla birra. Quindi è una discriminazione di un prodotto da pasto che è bevuto, come ricordava, da 35 milioni di italiani. Quanti? 35 milioni di italiani bevono birra. Quindi più di quelli che bevono il vino, probabilmente. Guardi, un dato abbastanza simile, cioè non c'è, sì, una grande differenza. Difatti noi tutti come consumatori in certe occasioni beviamo vino. Ma infatti si inizia con una birretta e poi dopo si pasteggia a vino. Col vino. Beh, non esageriamo, no. Ho detto una birretta, un bicchiere di vino, poi vado a piedi. Diciamo che è meglio bere un vino, birra, no. Senta, però a quanto ammonta questa accisa sulla birra? Allora, l'accisa sulla birra con le nuove tasse, faccio una stima, arriverà a superare sicuramente 500 miliardi di euro di tasse, come oggi. Con quello che il nostro Stato ha deciso con due riforme fatte a ottobre sulla cultura e poi a novembre sulla scuola, diciamo che graveranno un altro 200 milioni in più, quindi una stima tra i 600 e 700 milioni di accise, a cui non dimentichiamoci, sì, che viene applicata l'IVA, quindi noi non solo paghiamo l'IVA. A l'IVA viene applicata anche sull'accisa. Ma certo, ci spieghi a noi che, nel senso, questa cosa cambia, nel senso che ogni birra costerà 50 centesimi in più, o è un'accisa che pagate voi, ecco, produttori di birra? È questa la domanda. È semplice. Lei va in un supermercato, sì, prende una bottiglia di birra, la paga un euro, a regime, quindi dal 1 gennaio del 2015, 45 centesimi sono la somma di IVA e accisa. Cioè la metà praticamente. Certo. Anche la metà, esattamente. Quindi noi come consumatori diamo un prodotto a 55, sì, centesimi, lo Stato porta a casa. Però diciamo una cosa, chiariamo una cosa, perché sennò sembra che non vogliamo pagare l'IVA. Cioè l'IVA, no, c'è su tutto. C'è su tutto. Ci mancherebbe altro. L'IVA c'è su tutto. Quindi, certo, il calcolo proprio sull'accisa a quanto ammonta? Metà, sull'euro. Guardi, è semplice, l'IVA è il 22%, quindi voglio dire... Quindi 22 centesimi su un euro, certo, di birra, 22 centesimi sono di un'accisa. E 23 sono di accisa. Questo è un calcolo molto semplice. Quindi questa nuova accisa è solamente sulla birra, invece non è per esempio sul vino? E su quali altri alcolici è? Così, non lo è mai stato sui prodotti da pasto. Gli unici prodotti che gravano di accise come noi sono i superalcolici. Quindi voi e gli alcolici tipo... Superalcolici distillati. Whisky, rum. Che sono gli unici prodotti. Ma come prodotto da pasto siamo solo noi. Perché viene considerata non un prodotto da pasto? Beh, il superalcolico, no, voglio dire, normalmente non viene bevuta a pasto. No, la birra. Non lo dica ai russi. Ma no, perché semplicemente, mi scusi, io credo che purtroppo fino ad oggi, speriamo tutti che il nuovo, sì, governo cambi rotta, ma in realtà vengono fatte queste regole fiscali, vengono fatte senza pensarci troppo, cioè è capitato negli anni passati e siccome dobbiamo finanziare una riforma, questa rotazione... Ma appunto una regola sballata perché considera che la birra non sia una bevanda da pasto, il vino invece sì. Sì, esatto, ovviamente stiamo parlando di 30 anni fa quando la birra in Italia se ne consumava molto poco, oggi è un prodotto... Mi consenta, nazional popolare, giovane. Beh, pizza e birra è un classico. Quindi. Ma secondo lei perché hanno deciso di colpire, diciamo, la birra invece del vino, per esempio? Nel senso che mi chiedo se c'è dietro un pensiero che forse i produttori di birra ce n'è di più esteri, allora uno colpisce quelli. Guarda, no? io credo allora, questo probabilmente era vero 30 anni fa, oggi il settore della birra era un settore che offre poi 137.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti. In Italia? in Italia, quindi voglio dire tra persone che lavorano direttamente nelle nostre fabbriche e persone che... E quindi secondo lei come mai hanno... è semplicemente un caso o c'è un pensiero dietro? No, non è un caso, è semplicemente che quando lo Stato, come è accaduto negli anni passati, non vuole tagliare costi, non sa come finanziare le riforme, va a pescare a rotazione ciò che è accaduto negli ultimi 30 anni e quindi siamo capitati noi all'interno di questo meccanismo. Nel senso che quindi ci prova con la benzina e tanto quello lo fa ogni 6 mesi, poi lo fa con le sigarette e poi arriva la birra. E poi arriva la birra. A rotazione noi andiamo avanti così e non sa cosa produce questa cosa oggi in un clima recessivo? Che lo Stato perde quattrini, perché di fatto l'elemento paradossale è che incrementando le accise diminuiscono i consumi e considerato che noi generiamo circa 4 miliardi di tasse tra IVA, accise, ovviamente anche l'IVA che viene pagata quando lei beve il prodotto nella pizzeria, quindi se assommiamo tutte le tasse di questo settore, ovviamente una caduta del 2% genera minore entrate complessive per lo Stato. Certo. Quindi il paradosso è che incrementano le accise e diminuisce la montata di gettito fiscale che lo Stato incassa. E veniamo a questa petizione che avete lanciato, siete tra i promotori. Vi ringrazio anche di darci una mano. Abbiamo messo a novembre, quando abbiamo visto che la situazione francamente era inaccettabile, su un sito che si chiama www.salvalatuabirra.it, quindi molto semplice, una petizione che richiede a un consumatore molto semplicemente nome e cognome e un sito email, così lo aggiorniamo su come sta andando la raccolta di firme. Abbiamo raccolto 70.000 firme che io personalmente ho portato in Parlamento per cercare di, le prime 45.000, questo è accaduto già a cavallo tra novembre e dicembre, per cercare di fermare questa ondata di incrementi di accise. Noi abbiamo l'obiettivo di raccogliere 100.000 firme e ovviamente questo mi aiuta in sede politica a far capire che la birra non è un prodotto di nicchia, ma è un prodotto, come dicevo prima, italiano a tutti gli effetti, bevuto da 35 milioni di italiani, e che quindi la penalizzazione di questo settore fa male all'economia, fa male alle tasse dello Stato, fa male ovviamente alla nostra industria, non genera nessun valore. Un'ultima curiosità prima di salutarla, grazie per aver rilanciato questa petizione che noi in qualche modo sosteniamo. La birra italiana è diversa per esempio dalla birra più famosa, quella tedesca o quella anglosassone? Cioè abbiamo delle peculiarità? Guardi, la birra italiana sta crescendo tantissimo. Pensi che ci sono in questo momento 533 imprenditori e molti sono nati dal 2008 e oggi. Quindi, come sempre nel campo dell'alimentazione delle bevande, l'Italia è leader. Quindi anche nella birra, che magari 30 anni fa era un prodotto tipicamente delle regioni nordiche, Germania, Belgio, Danimarca, paesi, Inghilterra stessa, come lei ha citato, oggi sta diventando un prodotto che fa stile e tendenza fuori dai confini italiani, perché abbiamo una capacità di innovazione straordinaria. Quindi in qualche modo non solo penalizziamo il settore italiano, ma penalizziamo anche il settore estero. Tenete conto che in pochi anni abbiamo triplicato l'esportazione di questo prodotto, tanto per in 6 anni abbiamo triplicato l'esportazione. Grazie Alberto Frausin, presidente di Assobirra. Questa è la petizione contro le accise sulla birra, se volete sostenerla sapete dove andare. Andiamo invece adesso con qualche ascoltatore prima di chiudere questo blocco. Stefano da Roma, credo che sia quello di prima forse che abbiamo recuperato, o un altro. Stefano, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, siete molto simpatici. Grazie. Allora, dunque, io mi immedesimo nei panni della Polizia Municipale di Bologna e dico, ma perché non posso fare una doccia dopo che torno dal servizio già in strada? Per risparmiare sull'acqua calda, questa è la loro motivazione. Vogliamo, mi è da ridere, perché poi in Italia si condivido. Passa da un eccesso all'altro, no? Come al solito, nella pubblica amministrazione. Cominciamo a fare risparmi seri, cominciamo a eliminare le auto blu, le scorte come quella di Silvio Berlusconi, che non capisco perché debba essere protetto dalle scorte dello Stato quando lui è un delinquente e dovrebbe stare in galera, come adesso succede a Rines in Germania, che ha evaso il fisco, 3 anni, va in galera dritto dritto, non farà nemmeno ricorso. Invece il nostro Silvio Berlusconi addirittura... Il dirigente del Bayern, sta dicendo? Sì, il dirigente del Bayern. Si ha fatto anche un'affermazione bellissima, che ha detto: il mio vero errore è stata l'evasione fiscale, quindi è giusto che io paghi. Detto, pago, non farà nemmeno ricorso. E ancora, perché non togliamo la polizia dei carabinieri dagli stadi? Quelle sono partite tra società private, ci devono pensare loro agli steward a controllare. Va bene, insomma, queste sono le proposte di Stefano da Roma sulla spending review. Grazie. Dico anche per completezza dell'informazione che ho dato, visto che stavano commentando quella, che comunque anche gli stessi vigili di Bologna hanno risposto dicendo se è una questione veramente di risparmio, per esempio come mai c'era il riscaldamento altissimo tutto l'inverno, che quindi si spende anche in quel modo lì. Giusto. Si dice anche che la rigidità sul tema in realtà è stata un po' una ripicca del comandante, che si sarebbe sentito scavalcato nella trattativa col comune sulla riorganizzazione del corpo, quindi in realtà ci sono dei dubbi, diciamo, su questa circolare. Volevo, per completezza, volevo dirlo. Ci fermiamo qua. Laura da Grosseto la sentiamo dopo il giornale radio. Vi ricordo che sentiremo anche i protagonisti di Hotel 6 Stelle, il docu reality, la docu fiction, che dove ci sono i ragazzi down che fanno un inserimento in uno stage in un albergo della capitale. Un bel esperimento di TV, ne parliamo tra poco dopo il giornale radio. Si può fare cronache da un paese migliore. Questa è, caro Carlo Gabardini, che stavi prima accennando a qualche passo di ballo, passo di danza, e poi sto facendo anche un selfie che adesso pubblicherò sul mio Instagram. Fantastico. E il mio Twitter. Questa è Time to Pretend, il singolo di debutto della band americana MGMT. Pensa che la suonarono questa qua nel 2008 al David Letterman Show, facendo arrivare la canzone al 38esimo posto delle classifiche alternative. Non so se è tanto, se è poco, 38esimo, però è sempre è il classico 38esimo posto, è classico, diciamo. Lo riporta Wikipedia almeno. E questa canzone, la vostra canzone, il vostro Si può fare di oggi, ce lo segnala Francesco Castaldo. Noi vi invitiamo anche subito ad andare sulla bacheca Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24, a mettere sulla vostra canzone quella che vi dà la carica, il vostro Si può fare, così facciamo la colonna sonora del programma anche e poi Twitter. Vediamo il CD ovviamente per Natale. Certo, ovvio, con le renne. In beneficenza, era chiaro. Ah, poi vabbè, dopo do anche il mio IBAN comunque. Non si sa mai. Esatto. 800 24 00 24, andiamo con qualche ascoltatore. Per esempio, c'è anche il personaggio della settimana. Dobbiamo dare dopo. Aspetta, dopo. Donatella dopo. Da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo dare la risposta al quiz per me e Matteo Renzi. Matteo Renzi perché? Perché va molto nelle scuole. Pensavo dicesse perché va molto di moda e faceva ridere. Ci poteva stare, diciamo, comunque. È molto presente nei nostri televisori, nelle nostre notizie. Anche quello. Va molto nelle scuole, in effetti, perché il primo indizio era che il personaggio ha a cuore l'istruzione. E la notizia della settimana, vabbè, su Renzi ci sono notizie tutti i giorni, quindi ci sarebbe stata anche questa settimana. Comunque, Donatella, grazie, ma non era Matteo Renzi. Siamo anche forse un po' lontani. Diamo un altro indizio che mi sembra difficile per adesso indovinare, quindi aggiungiamo al primo indizio che era... Il primo indizio era che ha a cuore l'istruzione. E diamo un secondo indizio che è un papà amorevole. Papà amorevole che ha a cuore l'istruzione, bellissimo. E si vincono i biglietti e i cataloghi preziosi, mi raccomando, per della mostra di Klimt a Milano, partita il 12 marzo e che ci sarà fino al 13 di luglio. Quindi biglietti più catalogo della mostra di Klimt, se rispondete correttamente. Andiamo con chi? Con Laura, che ci chiama da Grosseto. La signora Laura che avevamo in attesa da prima. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Forte e chiaro. Sì, benissimo. No, grazie della possibilità. Dunque, io volevo soltanto intervenire per una proposta, suggerimento costo zero. Uh-huh. Ho una classe di bambini, di ragazzi delle scuole medie, studiando i volumi e facendo anche educazione alla salute, ci è venuta in mente questa cosa che, siccome non sappiamo a chi dirla, ho pensato di dirla a voi. E noi siamo qua per ascoltarlo. Allora, non so se è un buon incipit, nel senso che proprio non c'era nessuno a cui dirla, dice vabbè, io chiamo sti due che tanto era la mattina già si svegliano. Era tutto chiuso. È una proposta, diciamo, di variare un qualche cosa di importante. Sentiamo. Figuriamoci se una classina può... dunque, siccome si è notato che i ragazzini sempre più fumano, a età basse e la facilità con cui possono accedere a tutto potrebbe aiutare far fare pacchetti non più da 20 ma da 100 sigarette con un disagio, con un disagio per chi le compra con sì. I 25 euro è difficile a trovare, insomma ci vuole un pochino di più. 25 con un risparmio di carta. Sì, 100, ah beh, certo, 100 sigarette moltiplica per 5. Con un risparmio di carta per chi le produce, noi abbiamo calcolato anche i volumi, insomma, quello che l'abbiamo fatto, è effettivamente notevole per chi dovrebbe avere il disagio di variare, diciamo, il sistema produttivo di carta, ma anche con un risparmio di carta non indifferente. È interessante questa cosa qua, Laura. Però mi scusi, quello che mi chiedo è, se noi siamo in tre amici che fumiamo, io devo convincere assolutamente altre due persone a fumare anche loro, così mi compro un pacchetto in cinque, ci dividiamo le spese, e quindi io dovrò obbligare altri due a fumare, che poverini non volevano fumare per niente. No, non è vero questo, perché lei dovrebbe ingegnarsi, cioè dovrebbe stimolare il suo ingegno per far sì di convincere qualcuno a qualche sua idea. In ogni caso c'è un lavoro da fare. Certo. Laura, questa è una proposta interessante. Si ingegna, diciamo, su un certo tipo di cose ci si ingegna. C'è la fantasia, sicuramente. C'è il problema che ci vorrebbe una legge che costringesse i produttori, perché altrimenti i produttori non lo faranno mai, per la ragione che invece vogliono venderne di più di sigarette. Comunque, è un'idea. Dovrebbe essere raccolta, credo, dal Parlamento. Non so quanto poi i pacchetti da 1000 a quel punto, pacchetti da 30.000, bisogna essere tutto un condominio che fuma, lo si compra tutti insieme. Ho comprato il pacchetto di sigarette, ho investito 86.000 oppure euro, l'unica sigaretta di quella l'unica sigaretta molto lunga di 40 centimetri che gira, ce la si passa, è però poi cosa, diventa un'altra cosa e non cosa. Vorrei parlare del tuo argomento preferito, che però hanno appena bocciato la Fini Giovanardi, quindi per il momento no, hanno approvato le nuove tabelle sulle droghe leggere, quindi non si scherza più, bisognerà approfondirla questa cosa bene. E è passata tra l'altro l'uso terapeutico in qualche modo, vedremo, quindi devi trovare anche 8 persone che per girare una canna e che siano tutte 8 malate. Viola da Milano, buongiorno. Buongiorno, prego. Io volevo intervenire sul logo di Expo, perché mi fa piacere che qualcuno ne parli e che Oliviero Toscani ne abbia parlato, e vorrei aggiungere una cosa che forse non si è detta abbastanza. Diciamola. Questo logo è stato fatto non da un'azienda italiana, ma bensì dalla Disney, che notoriamente è un'azienda che fa anche cose bellissime. Ma io questo lo trovo francamente davvero assurdo, quando finalmente riusciamo a portare in Italia una manifestazione così importante, e non credo che in Italia manchi la creatività per fare un logo. No, anzi, direi che siamo tra i primi nel mondo in realtà per quello che riguarda grafica, design. Però c'è stato, spieghiamolo agli ascoltatori, c'è stato un appalto, hanno partecipato a una gara. C'è stato un appalto dove ha vinto c'erano varie aziende e ha vinto l'unica azienda non italiana. Ha molto ragione, e tra l'altro, se posso dire, è molto Disney il logo, quindi forse invece serviva qualcosa di davvero di più italiano, di più simile a quello che è Milano, di quello che è stato Milano nella grafica, Milano in un sacco di altre cose, o diciamo l'Italia. La Milano anni 80, però insomma. No, ma anche l'Italia di adesso, insomma. Sì, però dico, svolgendosi a Milano, parlando di logo, nel senso che ci sono nostri grafici che hanno fatto scuola, anche i nostri designer che hanno fatto scuola in tutto il mondo, quindi inventare un logo poteva essere una cosa un po' più milanese. Insomma, diciamolo così, senza che ci sentano troppo, perché non vogliamo essere non patriottici su questa cosa di Expo, però vabbè, questo logo... Ma essere patriottici per un logo della Disney, che patria è, scusami, la patria di Topolino? Esatto, la patria di Topolino, ma anche la patria dell'Expo, perché siamo noi a farlo, dobbiamo farlo funzionare bene. Il governo punta tutto su Expo per il rilancio dell'economia, la Lombardia, Milano, l'Italia, e quindi deve andare bene per forza. È questo, no, è inutile che fai finta di non capire, ma questo è il punto. Faccio finta di non capire perché sono stupido e non sono il giornalista che sei tu, quindi... 800 24 00 24. Traffico, torniamo tra pochissimo. Vogliamo ricordare anche gli indizi sul personaggio della settimana, se vincono i biglietti e il catalogo per la mostra di Clint. Gli indizi sono che è un padre amorevole e che ha a cuore l'istruzione. A tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our mind. There's a star. Starman, questo è Starman di David Bowie, e sei sono le stelle che splendono sopra la docufiction della Rai che si chiama Hotel 6 Stelle, un bel prodotto televisivo, non so quanti l'abbiano visto, ha debuttato lunedì 17 febbraio, prodotta da Rai 3 e Magnolia in collaborazione con l'associazione italiana Persone Down. Il programma, ispirato da una trasmissione svedese, Service with a Smile, servizio col sorriso, racconta l'esperienza lavorativa di sei ragazzi con sindrome di Down impegnati in un tirocinio formativo in un grande hotel della capitale. Io l'ho visto, mi sono divertito, emozionato, anche appassionato. È un bel prodotto televisivo prima di tutto, e noi ne vogliamo parlare con Mario Berardi, che è presidente dell'Associazione Italiana Persone Down. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Nonché buongiorno. Con Nicolas Confaloni, che è uno dei protagonisti. Nicolas. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo e andiamo per ordine. Berardi, come nasce l'idea di fare questo prodotto televisivo? Io ho detto un'idea che è stata fatta in Svezia per la prima volta. Sì, un programma svedese che ripropone questo tipo di far lavorare le persone con disabilità per far verificare, insomma, come quante e quali siano le possibilità e le competenze, sì, a cui i ragazzi possono arrivare. Aiutati. Perché in effetti il grande tema è questo, cioè dell'inserimento lavorativo, esatto, in particolare dei ragazzi down, che hanno sicuramente molte potenzialità, e per esempio nel campo alberghiero c'è una tradizione, si cerca di fare questa cosa sempre di più e magari ci si riesce al di là della docufiction. Ci sono esperienze in Italia di questo tipo che funzionano? Di ragazzi che lavorino in alberghi o anche in altre unità lavorative, sì. Sì, ce ne sono molto, ce ne sono, credo che solo per quanto riguarda la nostra associazione abbiamo piazzato più di 100 ragazzi al lavoro. Lavori non sempre, ovviamente a tempo indeterminato, certo, però insomma. Ma quindi è già una realtà che esiste questa, una di realtà là molto positiva. Programma. Sì. Sì, sì. I settori di sono diversi, tra l'altro, i settori di impegno, c'è quello alberghiero che sicuramente, ma anche la ristorazione, abbiamo ragazzi che fanno aiuto infermiere, insomma, i nostri ragazzi, se adeguatamente aiutati e preparati nella fase, nello start-up, sanno, poi restituiscono con un lavoro serio e puntuale quello che ricevono in aiuto da noi. Com'è stato mettere in piedi questa produzione televisiva che ha tutti gli aspetti, è un programma nuovo perché appunto è una docufiction, cioè è qualcosa che accade realmente, però naturalmente ci sono degli elementi di fiction, di costruzione, di sceneggiatura, certo. Però ci sono una serie di inquadrature giuste, si vede, c'è davvero l'emozione, ci si appassiona, c'è una grande partecipazione anche del personale dell'albergo che sono davvero straordinari, perché ma con guardi, leggerezza il personale dell'albergo, credo che intanto va ringraziato, non credo di poter dire il nome dell'albergo, ma insomma, ma sì, è un programma che è in televisione, lo può dire, però non so se il nome poi non si vede mai, no. Quindi, però voglio dire che hanno dimostrato una capacità di interagire con i nostri ragazzi, che di solito si tende a trattare come degli adulti bambini. Certo. Cosa che non sono, loro hanno la maturità e le capacità di elaborazione delle persone della loro età. Ma dice che sono bravi loro a trattarli così, o c'è anche un po', diciamo, l'effetto telecamera? No, sono loro, all'inizio avevano un atteggiamento, se avete fatto caso, compaiono a volte delle persone in secondo piano che sarebbero i nostri operatori proprio, certo, che sono lì per cosa? Per evitare atteggiamenti sbagliati dei ragazzi e dei collaboratori della, certo, dei tutor, che sono bravissimi, sono, perché hanno questo grado di severità, cioè, stai lavorando, io da te pretendo che è vero, non mi fai sorrisini accattivanti o provarci. E se posso dire, è un tema difficilissimo da trattare questo, immagino che lei anzi ce lo possa spiegare meglio di chiunque altro, e invece il programma è fatto con una delicatezza rara, devo dire, sì, perché sì, è, ripeto, essendo un tema così difficile, poi ci si aspetta che magari la televisione rovini tutto. tutto. Aggiungo, invece, cioè, aggiungo una cosa: delicatezza e leggerezza, e questa credo che sia anche proprio il tocco dei sei ragazzi coinvolti, oltre che del personale molto bravo, che hanno indubbiamente questo tocco dell'allegria. Infatti, non a caso la versione inglese si chiamava Service with a Smile. Nicolas Confaloni. Tu sei alla reception in questo, perché ognuno ha un suo ruolo, no? Siete stati messi in vario, chi in cucina, chi a fare le camere. Tu sei alla reception o sbaglio? Sì. Com'è stato essere catapultato lì a ricevere i clienti, a parlare con i clienti? Un lavoro nuovo, è difficile? Vabbè, tanto è difficile, no, però è tanto facile perché e perché ho pure lavorato là, ho parlato anche con la gente, in contatto. E quindi... Ti piace stare a contatto con i clienti dell'albergo? Sì, tanto, soprattutto gli spagnoli, i cinesi, qua. E come fai con i cinesi? Come parli, in inglese? Vabbè, io qualche parola parlo in cinese. Perché in cinese? Sai addirittura pure il cinese? Sì, come si dice buongiorno, benvenuto in cinese? Ni hao. Porca miseria. Perché tra l'altro in alcune puntate o in tutte c'è John Peter Sloan che fa i suoi divertentissimi corsi di inglese proprio a loro sei per insegnargli l'inglese. Nicolas, ti sei divertito con John? Bravo. Sì, è bravissimo. Tu gli insegni il cinese, direi. Potete perché... fare uno scambio. No, veramente lui ha insegnato a noi inglese. E veramente John Pieslo è un personaggio molto famoso in Italia. Certo. Perché mi ha insegnato l'inglese, perché ha fatto What's Your Name, My Name is Nicolas, e poi Welcome, Sparkling, Steel, poi... Vabbè, insomma, ha fatto tante cose John Peter Sloan. Insomma, sei soddisfatto, Nicolas, di questa esperienza? Come ti trovi con gli altri persone che lavorano lì? Sia i ragazzi down che il resto del personale. Ti trovi bene? Hai fatto delle amicizie? Sì, ho fatto delle amicizie con mio capo, che si chiama Francesco. Poi ho fatto amicizia con tutti i colleghi, tanto simpatici, ospitali, e quindi spero di continuare per questa strada. Ma bene. Senti, tu sei fidanzato, giusto? Ho letto che sei fidanzato. Sì, sì. Cosa pensa la tua fidanzata del fatto che vai in televisione a fare questo reality? Si lamenta? È un pochino, sì, è un po' gelosa. Ah, è gelosa? Gelosa perché tu hai la notorietà, poi magari chissà quante altre ragazze conosci. È gelosa delle altre ragazze che sono dentro nel reality o in generale? No, è gelosa perché il fatto che io ho una relazione con i miei colleghi. C'è l'amicizia con i colleghi, lei si sente un po' esclusa. Berardi, è ancora in linea? No, è caduta la linea con Mario Berardi, mi dispiace, presidente dell'Associazione Italiana Persone Down. Siamo però, io direi, quasi in chiusura, anche perché tra poco c'è la pausa. Io rinnovo i complimenti a tutta la produzione, non è una cosa di piaggeria. Complimenti a Magnolia. A Magnolia, alla Rai, insomma, è fatto bene, perché, ripeto, è emozionante, sai, essere emozionante, anche divertente, leggero, facendoci naturalmente riflettere su cosa può essere la disabilità, le difficoltà per un ragazzo down, ma anche per il personale dell'albergo che deve avere a che fare con questo mondo, con questa particolarità. Però ne escono fuori delle situazioni molto positive. Nicolas, ci sei ancora? Sì. Complimenti a te e a tutti i ragazzi. Complimenti, saluto a tutti. In bocca al lupo per il resto, per il futuro, professionale e non. Grazie. Grazie a lei. Buona domenica. Ciao, buona domenica. Va bene, direi di chiuderla qua. Hotel 6 Stelle, lunedì sera, prossima puntata su Rai 3. Andiamo con Cristina che ci chiama da Udine. Aggiungo solamente che non c'è un conflitto di interessi, perché in questo momento non sto lavorando per Magnolia, perché mi è venuto in mente nel momento in cui citavo Magnolia, che essendo anche la casa di produzione di Camera Caffè e di altre cose che ho fatto, non c'è un conflitto di interessi, no. Mi sembrava corretto. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno a voi. Lei su cosa voleva intervenire, Cristina? Io volevo dare la risposta sul personaggio della settimana. Prego, ci dica. Secondo me è Renzo Piano, perché ha uno studio dove appunto con il suo compenso da senatore appunto Sì, appunto. E lo utilizza per pagare appunto questi studenti, sì, questi architetti, e quindi, e poi perché ha avuto un incontro con Renzi. Con Renzi, sì, sulla questione, sì, dell'edilizia scolastica, sì, perché l'iniziativa di Renzo Piano nasce sul rammendo delle periferie. Lui, col suo stipendio da senatore a vita, ha messo su questo team di 6 o 7 giovani bravi architetti per fare questo lavoro. Poi, quando Renzi ha lanciato il piano per l'edilizia scolastica, ha cercato di coinvolgerlo. Lui è andato a Palazzo Chigi, ci sono parlati, ha detto darò una mano. Però non era Renzo Piano, anche se ci poteva il stare. Il personaggio no, alla notizia. Grazie. Però ottimo che l'abbiamo ricordata. Adesso andiamo a Ferrara con Rosa Pia. Possibile che si chiami Rosa Pia? Sì. Buongiorno. Buongiorno Rosa Pia. Ciao ragazzi. Io ho pensato subito quando avete detto un padre amorevole e di cultura, uomo di cultura, Stefano Zecchi. Stefano Zecchi? Il filosofo? Sì, penso di sì. Non ci sono omonimi noti. Perché Stefano Zecchi, Rosa Pia? È perché l'ho seguito da tanto tempo, lo seguo e ho i suoi libri, e per me ha uno spessore culturale, okay, molto importante. Importante, va bene, però non è il personaggio, non era, di non era lui, ma... sottolineiamo che più che amore per la cultura, sì, amore per l'istruzione, sì, l'istruzione, vabbè, padre amorevole, magari tra poco padre è più padre, diciamo, che è innamorato dell'istruzione, diciamo, sì, giusto? La notizia è più su quello. Volevo precisare una cosa, che giustamente ci hanno mandato un tweet al mio Twitter dicendo che non è il logo quello progettato dalla Disney, bensì la mascotte di Expo 2015. Sì, il logo ovviamente è un'altra cosa, intendevamo quello la mascotte, sì, quindi chiedo scusa. È vero, il logo è quello giallo, rosso e esatto, giallo, blu e rosso, credo. I discorsi non cambiano fatti, Expo, nel senso che comunque i discorsi fatti erano riguardo la mascotte, ho semplicemente detto a un certo punto logo, invece intendevo mascotte. Claudio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Volevo tornare su un'affermazione che avete fatto riguardo a Expo. Sì. Lei, mi pare lei o suo collega, avete detto le cose Expo andrà bene perché le cose devono andare bene, perché Expo deve andare bene. Ecco, io credo che questo sia proprio quello che non si deve mai dire. Expo andrà bene, potrebbe andare bene se le cose si faranno bene, perché può anche andare malissimo se le cose si fanno male. Assolutamente, condividiamo assolutamente. Le do l'esempio della via d'acqua che è stata cassata poche settimane, sì, fa, che non si farà. Sì. Sapevamo tutti noi tecnici un po' detti i lavori che un anno e mezzo, due anni fa, le indicazioni dei progettisti di Expo per la quantità di acqua che doveva entrare nel sito, sì, per poi riuscire, avrebbero determinato con un piccolo calcolo idraulico un canalino di 3 metri di larghezza per 50 centimetri di spessore di acqua. Ora, questa era la via d'acqua cosiddetta. Quando poi hanno progettato il definitivo, è venuto fuori che per portare quest'acqua avrebbero fatto una striscia di calcestruzzo larga 3 volte lo, sì, specchio d'acqua di 3 metri, che poi è stata contestata dagli ambientalisti. Sì, sì, ma guardi, è stato chiariamo subito, perché è stato un pasticcio sicuramente. Quando ho detto deve andare bene, era un auspicio, cioè vogliamo... Era tra l'auspicio e la battuta, vorremmo, diciamo, tutti nel senso... che vada bene questa cosa dell'Expo, perché è una cosa importante, un tema importante, nutrire il pianeta. Però, per esempio, su questa cosa della via d'acqua, io sono d'accordo con lei, è stato pensato forse un po' in fretta, è stato gestito male, perché alle obiezioni giuste che c'erano non si è mai risposto con un progetto alternativo, ma si è detto si farà così perché così è nel master plan e basta. Poi alla fine si sono accorti che non stava in piedi e non c'è un progetto alternativo, giusto, per ora. Ma lei è un tecnico? Lei è un tecnico, Claudio? Nel senso, un architetto. Ma si è occupato di questa questione? Sì. Ero presente quando vennero presentati i dati idraulici dai, sì, progetti di Expo, e dai dati idraulici veniva fuori in 5 minuti, e lo si disse in quel convegno, che la quantità di acqua necessaria, sì, non era un naviglio o una via d'acqua come Leonardo da Vinci le ha progettate, che hanno un muro di 1 metro e 12 metri di acqua, ma era una cosa di 3 metri. Va bene, e quindi voi ve ne siete accorti? E cosa avete detto? Non si può fare? No, guardi, la catena di comando di Expo non è mai stata una catena di comando nella quale si poteva intervenire con dei valori tecnici se non si... Perché era deve andare bene, e quindi lei giustamente dice forse non bisogna dirsi deve andare bene. Assolutamente, le cose vanno bene se si vuole, se si fanno i calcoli, se si progettano. Renzo Piano, di cui si è appena citato il nome, sì, è per esempio una persona che non ha mai fatto progetti senza calcolare che cosa veniva fuori. Va bene, grazie Claudio, abbiamo chiarito questo aspetto. Grazie mille. e speriamo che d'ora in avanti vada meglio, ecco, questo è l'auspicio. Facciamo una pausa, torniamo tra poco, parliamo di una bella iniziativa dell'Emilia Romagna dove se fai qualche ora di volontariato ti ricambiano con gli sconti per il cinema e per il teatro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Anticipato, in Emilia Romagna arriva la Younger Card, fai volontariato e guadagni dei premi, un modo per incentivare i premi. No, il volontariato soprattutto. Ne parliamo con Donatella Bortolazzi, assessore allo sviluppo e alle risorse umane della regione Emilia Romagna. Buongiorno. Buongiorno a lei e a chi ti ascolta. Buongiorno. Cara assessore, buongiorno. Allora è una iniziativa, ce la racconti lei, perché il titolo che hanno fatto i giornali è questo, no? Fai volontariato e guadagni dei premi, però c'è un meccanismo, si chiama Younger Card. In realtà questa è una carta regionale che mette a sistema un po' tutte le esperienze, molte delle esperienze che erano già presenti sul territorio regionale, dando un valore in più. Beh, innanzitutto tutti i giovani dai 14 ai 29 anni che vorranno avere la Younger Card potranno usufruire di sconti e agevolazioni per promuovere. Noi come regione e come enti locali promuoviamo consumi responsabili e anche offerte culturali e sportive, appunto. Questo indipendentemente dalle azioni di volontariato. Poi, se un giovane vuole mettersi in gioco per la propria comunità, sì, sempre in raccordo con gli enti locali, potrà diventare protagonista attivo, potrà in qualche misura aderire a progetti di cittadinanza attiva e di volontariato attivo, da un minimo di 20-80 ore all'anno che corrispondono a 20-80 punti, e questo, sì, gli consentirà di avere ulteriori premialità a livello locale e anche a livello regionale, che stiamo studiando. Perché in questo c'è un tema, no? Che sì, voglio dire io, che da quando diciamo per esempio il servizio di leva non è più obbligatorio e il servizio civile quindi non è più in massa un'alternativa al servizio militare, accade che per esempio molte associazioni di volontariato hanno avuto meno, diciamo, afflusso, meno affluenza di volontari in quel momento, più obbligati che altro. Adesso cerca di farlo per scelta, però per reagire a questa mancanza potrebbe, questa vostra proposta potrebbe dare una mano, insomma, no? Perché l'incentivo può far gola. Sì, non è un incentivo di tipo economico, quindi non so se possa fare gola. Noi abbiamo un progetto, abbiamo, come dire, un'ambizione ancora più alta, vogliamo far diventare i giovani parte della propria comunità, avvicinarli alla propria comunità, sì, e questo è un discorso che può valere da Piacenza a Rimini. Questa carta ha una valenza regionale, gli sconti ad esempio che un ragazzo può avere a Rimini li può avere anche a Piacenza. Beh, quindi è un incentivo economico, perché è uno sconto per un ragazzo, giusto? Non c'è niente di male, credo, a dirlo, no? Sì, questo sì, cioè nel senso che può girare su tutto il territorio regionale con la Younger Card e avere accesso alle agevolazioni che ma sono facciamo sì, no, ma quello che sto dicendo, lei sta dicendo la Younger Card è per tutti dai 14 ai 29 anni, chiunque abiti nella regione può richiederla, sieda, studio, lavori. Perfetto. Nel territorio regionale, nel momento in cui io invece carico dei punti perché faccio delle ore di volontariato, ho dei vantaggi ulteriori o ho gli stessi vantaggi come se non lo facessi il volontariato? Hai gli stessi vantaggi, in cui hai una premialità che decide l'ente locale in cui tu hai fatto la Younger Card, ecco, in cui tu fai il progetto. Facciamo un esempio, lei e ha detto un minimo di 20 ore, 80 ore, con sì, 80 ore di volontariato in un anno, uno qualche cosa vinco, cosa vinco? Volevi chiedere, sì, voglio andare su, su, voi sul premio. Molto su, non, dunque guardi, da una chiavetta USB a una macchina fotografica, queste sono le primalità che nei comuni sperimentali in cui abbiamo in cui è iniziata l'esperienza, che sono Reggio e Ferrara, è stato portato avanti. Quindi sono dei premi diretti. Dei premi diretti ai ragazzi. Ma anche sconti su, sul cinema, sullo sport, sulla palestra, sul teatro. Quello è per tutti. Quello è per tutti. No, ma se l'ente locale decide che come premialità ulteriore, al di là di avere uno sconto, fa un abbonamento per esempio a, una, a un teatro, quella è nell'autonomia dell'ente locale. Sì, oppure, fa uno sconto, oppure fa uno sconto maggiore, perché in realtà la, mi sembra che la cosa potrebbe funzionare nel momento, nel senso che se io vinco la chiavina USB va bene, me la porto a casa, ma se io quando sono in fila al cinema, io siccome faccio volontariato, invece che avere il 10% di sconto ho il 20% di sconto, e chi sta di fianco dice: ma come mai tu hai il 20%? Perché io faccio volontariato. Ah, c'è che faccio volontariato anch'io, e quindi questa cosa qua diventa virale, diventa contagiosa. Diciamo che questo è molto, come dire, molto economico come impostazione. No, mi scusi, è più economico regalare la chiavetta USB. Adesso non mi scatenate la polemica. È regalare la chiavetta USB che è una questione economica dove avete uno sponsor, invece questa diventa una questione di legarvi alla comunità, perché uno diventa, ha degli sconti maggiori, perché sono i più virtuosi, hanno sconti maggiori perché aiutano la comunità in altri modi. Cioè Gabardini la mette sull'effetto virale. Sì, questa è un'autonomia che decidono gli enti locali. Da organizzare. Come? È difficile, dico, da organizzare, non è più legata alla questione economica. No, non è difficile organizzare. Ah, bene, ottimo. Gli enti locali, cioè, lo possono tranquillamente fare. L'importante è che siano, ripeto, premialità, ad esempio, che non incentivino il consumo di alcol, se per esempio è con locali o cose del, o con ristoranti o anche con altre, con altri esercizi. Insomma, ad esempio, ci sono dei vicoli che noi abbiamo messo come regione in delibera e su cui a cui teniamo, insomma. Da quanto però tempo, veramente, assessore, è attiva questa, allora, meccanismo di Younger Card con annesse, diciamo, premialità per chi fa volontariato? È possibile, allora, fare una stima dei risultati? No, perché è troppo presto. No, è presto perché è stata appena lanciata, nel senso che l'azione è stata ideata più di un anno fa, però con tutti i vincoli che ha una regione, comunque anche le normative cui una regione deve sottoporsi, è stata lanciata. Adesso ci sono 300.000 carte che verranno distribuite in ogni territorio, in ogni territorio provinciale, o agli informagiovani o alle biblioteche o nei comuni. Anche questa è un'autonomia dell'ente locale. E poi ci sarà un camper che girerà, partirà il 22 per promuovere la carta, e poi ci sarà anche la formazione degli operatori, e poi c'è un sito in cui tutte le informazioni ci sono le nuove. Qual è il sito? Diciamolo. www.youngercard.it. Perfetto, ci risentiremo. Tutte le informazioni in cui sia un giovane, sia un'associazione che vuole ideare dei progetti di volontariato con i giovani, sia un ente locale, può accedere, può caricare. Va bene, è chiaro, insomma, si va lì e si trova tutte le informazioni. Grazie all'assessore Bortolazzi, ci risentiremo più avanti per vedere se ha funzionato questo meccanismo. Io ho dato appuntamento tra un anno per vedere quante carte sono state distribuite e i risultati che si sono speriamo ottenuti. Siano tantissime. Speriamo. Grazie. Speriamo di essere ancora vivi. Buona giornata a tutto. Arrivederci. Buona giornata. Allora andiamo con Mara che ci chiama da Trento. Buongiorno Mara. Buongiorno Mara. Vogliamo sentire qualche ascoltatore a commento. Per esempio, nessuno ha chiamato perché non l'abbiamo rilanciato la petizione contro l'accisa sulla birra. Ma secondo me siamo l'unico paese al mondo forse che paga una tassa in più sulla birra. Secondo me sono andati semplicemente tutti al pub a bere delle grandi birrette dicendo: occhio che fra un po' aumenta, portiamoci avanti, iniziamo a ubriacarsi per la disperazione, perché siamo l'unico paese che paga la tassa in più sulla birra. Abbiamo Mara da Trento? No, non abbiamo. Allora chi abbiamo? Francesca da Treviso? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, io telefono per il personaggio della settimana. Prego. Ottimo. E pensavo a Yu Shang, il cinese che porta a scuola il figlio dodicenne nel sud-ovest della Cina. L'ha pronunciato anche giusto, tra l'altro. Ma complimenti, guardi, abbiamo fatto una piccola riunione prima di decidere il personaggio, avevamo deciso che se anche non si fosse detto il nome esatto ma si fosse descritta la notizia avrebbe vinto il premio, invece lei addirittura ci ha superato e ha detto con enorme precisione il nome del personaggio. Oddio, enorme precisione, grazie. Lo lascerei dire a qualche cinese. No, però lo lascerei dire a Nicolas, il ragazzo down che abbiamo sentito prima, che sa il cinese e lavora a Hotel 6 Stelle, il perché programma. La notizia molto molto bella che abbiamo visto, ha colpito molti questa settimana, è questo signore che fa 29 km al giorno per portare il figlio disabile a scuola in spalla, il figlio che tra l'altro ha quello che raccontano le cronache è il primo della classe, quindi lui vuole che continui a studiare assolutamente. E ci mancherebbe altro, voglio dire, hai un padre che ti porta avanti e indietro per 29 km a spalla e vai anche un po' malino. È la premialità, il concetto esatto, di premialità di cui parlavamo prima, quindi vince assolutamente i biglietti per la mostra di Klimt, nonché il catalogo, Francesca da Treviso. Brava. Grazie mille, complimenti. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Continui a partecipare. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oggi una colonna sonora molto di grandi classici, Have a Nice Day, Stereophonics. Io annuisco perché sai che sono profondamente ignorante di musica, quindi non so. Meno male che c'è Andrea Piana, il nostro autore, che le azzecca tutte. No, io ci gli vado dietro. Io gongolo perché la musica mi piace. Ho appena postato il mio primo selfie da Radio 24 dal mio account Twitter, che è Carlo Gabardini, e ne sono molto contento. Hai messo con tanto di riferimento con l'account giusto del programma? Sì, signore, perché ieri su Twitter sbagliai, ho scritto si senza può fare 24. Con estrema così disinvoltura, senza aggiungere 24, chiedo anche scusa dimostrando tutta la tua imperizia su Twitter, che è un fatto gravissimo per te, che ti occupi quasi solo di Twitter. Ma direi che ma sì, glisso male, su questo perché sennò rispondo malissimo. Va bene, l'ha presa male. Parliamo di un progetto, Have a Nice Day, come avere una bella giornata all'interno del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, per ragazzi disabili e non, un percorso scienzabile che mira proprio a questo, un percorso di integrazione partendo però dalle differenze, dalle difficoltà. Ce ne parla Patrizia Cerutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Responsabile programmi scuola e famiglie proprio del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Come nasce questa idea e soprattutto in che cosa consiste? Perché voi sottolineate la diversità rispetto ad altri progetti fatti ad hoc nei musei per ragazzi disabili, dove però si fanno percorsi separati. Invece voi fate un percorso che punta proprio sull'integrazione. Sì, esattamente. Innanzitutto nasce da una collaborazione molto preziosa, che è quella tra il museo e l'associazione L'Abilità, che appunto si occupa di bimbi tra i 6 e i 10 anni con disabilità intellettiva, e con il sostegno di Fondazione De Agostini. La differenza rispetto ad altri progetti è appunto quella dell'inclusione. Noi cerchiamo di sostenere i bimbi e le loro famiglie o la loro classe nell'esperienza di visita al museo in modo inclusivo, insieme agli altri visitatori. Quindi abbiamo progettato una serie di strumenti che innanzitutto preparano il bimbo con la famiglia o la classe alla visita, e poi quando sono in museo gli permettono di seguire il percorso, diciamo così, di esplorazione e scoperta delle nostre collezioni e dei nostri laboratori insieme agli altri. E quindi intanto quando è partito da poco questo progetto, forse è stato lanciato proprio in queste ore, questo weekend. esatto. Avete allora, già una riprova, avete avuto un'affluenza, come sta andando? Allora, abbiamo innanzitutto fatto un po' di sperimentazione, il progetto è in fase sperimentale, abbiamo iniziato la sperimentazione con alcuni gruppi pilota che sono venuti nelle scorse settimane, ma da questo weekend è possibile per le famiglie prenotare il percorso targato scienziabile, quindi esplorare il museo grazie all'utilizzo di questi strumenti, che sono anche disponibili sul web appunto per preparare la visita, quindi si tratta di schede, kit, materiali che preparano i bimbi alla visita in modo che quando arrivino al museo siano già preparati i genitori, gli insegnanti, anche i ragazzi. Vogliamo fare qualche esempio di in cosa possono consistere questi percorsi, cosa ci si può trovare di fronte, quali domande, quali giochi, quali interrogativi, e anche forse a quale tipo di disabilità avete pensato, cioè a quale tipo di ragazzi bisognosi di un aiuto particolare? Allora, il progetto si rivolge ad un target preciso che sono i bimbi della scuola primaria, quindi tra i 6 e i 10 anni, con disabilità intellettiva e relazionale, quindi problemi di varia natura, diciamo anche di tipo trasversale. Quello che abbiamo preparato per loro, per iniziare, sono i percorsi di visita alla nostra collezione trasporti e poi il laboratorio di bolle di sapone, che chiaramente è un must per il museo, e quindi abbiamo iniziato da due cose di esplorazione e conoscenza del museo. Belle, importanti, divertenti. Che è il laboratorio di bolle di sapone. Sì, come sì, funziona? Sì, laboratorio... Che siamo curiosi, vogliamo vedere anche noi. sì, guarda. Mia figlia, 2 anni e mezzo, sapone... che è più piccola del target, però con le bolle di sapone impazzisce. Ma anch'io, assolutamente, che ne ho già 7 di anni, impazzisco con le bolle di sapone. Ce lo racconta? Sì, allora ci sono bolle giganti, si può entrare dentro una bolla, ad esempio, si fanno le bolle a grappoli. Si toccano le bolle, gli si danno i pizzicotti. Le bolle a grappoli sono un po' inquietanti, perché fanno pensare alle granate, volevi alle dire. Bombe a grappoli. Però, si entra addirittura dentro una bolla fatta di sapone? Certo, assolutamente sì, è una, delle cose più divertenti del laboratorio di bolle, si può entrare dentro una bolla. Però sarà stata anche una delle cose più difficili da formare per il personale, perché non è facile fare una bolla di sapone gigante. O è facile? No, siamo tutti preparati e pronti a fare delle bolle giganti. In quanti si soffia per una bolla dove posso entrarci dentro io? Non si soffia, si usa uno strumento speciale, diciamo, che ci aiuta un po' nel fare una bolla grande. Ah, ci sono dei segreti che non ci vuole svelare, va bene. No. Insomma, dovete venire a vederli. Dobbiamo venire a vederlo noi e tutte le scuole interessate. Sì. Come si fa per entrare in contatto con voi? Si va sul sito, se uno vuole prenotare la visita? Esatto, sul nostro sito trovate tutti i materiali scaricabili per preparare la visita e tutte le informazioni per prenotare uno dei percorsi scienziabile, sia che siate una famiglia o che siate una scuola. È online da qualche giorno e comunque poi siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione scrivendo a scienziabile@museoscienza.it. Va bene, grazie. Ottimo, grazie mille, perfetto, Patrizia Cerutti. Questa era l'iniziativa del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Siamo felici di averla ospitata, siamo anche in chiusura. Vogliamo leggere qualche messaggio, perché ci sono delle cose carine. Per esempio, perché Young Card non si può dire carta giovani? Hanno ragione. Condivido. Ho pensato soprattutto quando ha dato il nome del sito, che ho pensato, ma perché addirittura anche il sito uno deve ricordarsi Younger Card che Adesso lo ricordiamo, ovviamente. Non si può fare nulla se non è nominato in inglese, è la moda del momento. Tanto io spero che passi. La carta giovani, io me lo ricordo ero giovane. Sicuramente io. Suona un pochino più Stato nazionale fascista, esatto. La carta dei giovani. Però è l'italiano, è una lingua che funziona, insomma, possiamo usarla, no? Facciamo un appello, non lo so, vabbè, tanto è inutile. È come andare controvento. Poi c'è qualcuno che voleva come personaggio controvento, ovvero against the wind, volevi against dire. The wind, come personaggio della settimana Don Lorenzo Milani. Poteva anche starci, però insomma, un personaggio deceduto. Noi in genere facciamo personaggi in attività. Ma abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto anche Peppa Pig, la mascotte dell'Expo. Foodie. Direi che Don Milani andava benissimo. Tassa sulla birra, assurdo. Bisognerà continuare a parlarne di questa cosa qua. Adesso io direi che siamo davvero in chiusura. Ci fermiamo e qua tra l'altro, leggere qualcosa. No, sì. Perché dicono anche in tedesco, aggiunge tassa sulla birra assurda, e poi dice: c'è un detto tedesco che dice Bier auf Wein das Last Sein, Wein auf Bier das Ratisch Dir. Aspetta, solo che questa te la spiego. La dice: la birra sul vino lascia stare, il vino sulla birra invece fallo. Cioè è possibile farlo. Bere il vino dopo perché la birra, semplicemente sì. Esatto, dice che bisogna andare in crescita, diciamo, per il grado alcolico. Non riguarda le questo tasse. Questo solo per dimostrare che Gabardini sa il tedesco, perché ha studiato la scuola tedesca, tutto vero. Grazie, grazie ad Andrea mille. Piana, abbiamo già citato Giorgio De Luca, Camilla Tomadini, Carmelo Lauricella in regia. Noi ci sentiamo sabato prossimo, buona giornata da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini, buona domenica, e da chi ci ascolta in podcast. Sì!